535. Piccione a sorpresa. È una sorpresa dei miei stivali, ma comunque sia è bene conoscerla, perché non è cosa da disprezzarsi. Se avete un piccione da mettere allo spiede e volete farlo bastare a più di una persona, riempitelo con una braciuola di vitella o di vitella di latte. Si intende che questa braciuola deve essere di grandezza proporzionata. Battetela bene per renderla più sottile e più morbida. Conditela con sale e pepe, una pressina di spezie e qualche pezzetto di burro. Arrocchiatela e mettetela dentro al piccione, cuocendone l'apertura. Se al condimento suddetto aggiungerete delle fettine di tartufi, sarà meglio che mai. Potete anche cuocere a parte la cipollina e il fegatino del piccione nel sugo nel burro, pestarli e con essi spalmare la braciuola, così l'aroma differente delle due qualità di carne si amalgama e si forma un gusto migliore. Ciò che si è detto per il piccione valga per un pollastro.